Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: Ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano, disse loro: Che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: Venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: Abbiamo trovato il Maestro. E lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa. Abbiamo una scena che ci presenta Giovanni il Battista che indica a due dei suoi discepoli Gesù. E come lo indica? Lo indica come l'agnello di Dio. A noi questo vocabolo ci risulta un po' strano, come Gesù paragonato a un agnello. Che cosa vuol dire questo? Ma per il popolo ebraico dire che Gesù era l'agnello di Dio voleva dire che Gesù era il Salvatore, perché l'agnello ricorda l'agnello pasquale e l'agnello pasquale è il simbolo proprio della Pasqua, della salvezza, del passaggio dalla schiavitù alla libertà. Allora, questi due discepoli di Giovanni, sentendo parlare così Giovanni di Gesù, vanno subito a seguire Gesù. E poi uno di loro, di questi due discepoli, era Andrea. Andrea, una volta che ha visto Gesù, non si tiene per lui la notizia, va subito a dirlo a Simon Pietro, suo fratello, e lo conduce da Gesù. Ma tutto questo perché oggi vi vorrei soffermare su un particolare. Qual è questo particolare che vorrei guardare insieme a voi? Lo sguardo. Qui diverse volte si dice, in questo brano si usano il linguaggio degli occhi, perché all'inizio c'è Giovanni il Battista che fissa lo sguardo su Gesù, si dice proprio così. Adesso vi trovo il passo, dice Giovanni. In quel tempo. Dunque, aspettate. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava. Ecco, la prima volta lo troviamo che Giovanni fissa lo sguardo su Gesù. Poi Gesù si volta indietro e osserva che lo stanno seguendo. Quindi anche Gesù guarda. Poi abbiamo Gesù che chiede: Ma che cosa cercate? E poi i discepoli dicono: dove abiti? E Gesù dice: Venite e vedrete. Quindi di nuovo guardare. Poi di nuovo uno dei due, poi no, poi Andrea porta Simone, suo fratello, da Gesù e qui si dice: Gesù fissando lo sguardo sul Cristo, fissando lo sguardo su di lui, cioè su Pietro, gli dice: Tu sei Simone, figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa. Allora, che cosa voglio dire con questo? È molto importante il verbo guardare. E allora vorrei oggi fare un po', soffermarmi le potenzialità che ha lo sguardo dell'uomo. Lo sguardo umano, gli occhi. Veramente si dice sono lo specchio dell'anima, perché attraverso gli occhi è il linguaggio non verbale più eloquente che ci possa essere. Cioè lo sguardo, gli occhi dicono molto delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti. Il nostro sguardo dice se vogliamo continuare una relazione, se la vogliamo interrompere, se proviamo odio, se proviamo rancore, se proviamo tristezza, se proviamo gioia, anche la stessa direzione dello sguardo e la motilità dell'occhio possono esprimere capacità di intendersi, di voler o non voler comunicare, di entrare in contatto o meno con le persone, e poi tutte le espressioni che ci sono abbinate insieme. Per esempio, sostenere con occhio fermo il discorso senza battere ciglio, che esprime il desiderio di affermare le proprie convinzioni, oppure stare con gli occhi bassi, che indica modestia, timidezza, vergogna, oppure abbassare gli occhi significa evitare lo sguardo degli altri, magari per vergogna, oppure piantare gli occhi addosso esprime un guardare con un'intensità aggressiva. E, insomma, ci sono tante espressioni, i nostri occhi veramente possono comunicare tantissimo. Allora, che cosa vorrei suggerirvi oggi? Oggi vorrei suggerirvi questo: cercate, quando parlate con qualcuno, di esprimere attraverso gli occhi l'amore di Gesù, cioè guardare le persone con gli occhi di Gesù, sia le persone che vi sono simpatiche, sia quelle che vi sono antipatiche, sia le persone che amate, sia quelle che non potete tanto vedere. Chiedete oggi a Gesù: Gesù, prestami i tuoi occhi perché io veda ogni persona con i tuoi occhi. E fissate lo sguardo sulle persone, fatele sentire amate, fatele sentire accolte, fatele sentire uniche, fatele sentire importanti. Ecco, non importa quanto tempo abbiamo a disposizione per gli altri, o quante cose abbiamo da fare, o quanto interesse abbiamo in realtà per le persone che ci circondano, ma la cosa importante è farle sentire amate, anche se a livello istintivo magari non ci sentiamo attratti da queste persone, cerchiamo lo stesso di fissarle con lo sguardo di Gesù, fissandole, facendole sentire amate e accolte. E per concludere, vorrei citarvi questo aforisma che dice: possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell'essere umano. Buona giornata.